Scuola in controluce. E questa mattina torniamo a parlare del famoso concorsone. Buongiorno da Maria Piera Ceci. Il 7 novembre, infatti, come sapete, è scaduto il termine per le domande. Ben 321.210 le domande arrivate. Ma cerchiamo a questo punto di leggerli un po', questi dati su questo esercito di aspiranti prof. Chi saranno dunque i nostri insegnanti di domani? E lo facciamo con Lucrezia Stellacci, capodipartimento del MIUR, che ringrazio ancora una volta per aver accettato il nostro invito. Buongiorno. Buongiorno e grazie a lei. Allora, 321.210 domande. Intanto vi aspettavate questi numeri? No. Sinceramente non pensavamo di arrivare a questi livelli, comunque certo, bisogna gestirla. Insomma, andandoli un po' a leggere questi dati, anche voi insomma ve li siete ben guardati, e insomma la cosa che più salta all'occhio sicuramente è quella della maggioranza. In maggioranza si tratta di donne, ma una maggioranza proprio schiacciante, perché parliamo di 258.000 errotti di donne contro i restanti 62.000 uomini. Siamo destinati dunque ad avere una classe insegnante quasi tutta al femminile. Non è una cosa bellissima? No, non è una cosa bellissima, ma d'altra parte è anche comprensibile, atteso che gli stipendi sono molto bassi ed è difficile che un uomo possa mantenere una famiglia con uno stipendio da insegnante. Quindi diciamo che diventa una professione molto appetibile per le donne, anche perché per educare bisogna avere uno spirito materno che le donne chiaramente hanno più degli uomini. Beh, insomma, però l'insegnante non è più, no, visto come una figura materna che deve insegnare, cioè deve soprattutto trasferire. Ma devi avere anche molta pazienza e devi amare questi ragazzi. Ci vuole molto amore per educare, non basta, certo, essere dei disciplinaristi perfetti, perché bisogna saper trasmettere le conoscenze e bisogna anche capire quanto l'altro sia coinvolto in questo processo. E chi l'ha detto che un uomo non è capace di fare questo? Mi scusi. Sì, non lo dico, io sono una donna, quindi capirà che io sono anche un po', difendo un po' la categoria, però anche un uomo è capace di farlo, però diciamo che forse queste sensibilità sono presenti in maggior parte, in maggior misura nelle donne, e quindi io non vedo male questa presenza femminile nella scuola. Ecco, veniamo invece all'altro punto dolente, l'età, perché insomma si era detto un concorso che vuole svecchiare la scuola, vogliamo fare entrare i giovani. Alla fine insomma l'età media, ovviamente la media, quindi due polli, zero polli, la media dei candidati è quella di 38,4 anni. Solo in Italia possiamo pensare che la classe insegnante sarà giovane, visto che 38 anni insomma non è poi così giovane. Non è così giovane, ma d'altra parte... Perché voi speravate anche un po' in questo, no? Il ministro l'aveva detto. Ma sì, il ministro l'aveva detto, ma in genere noi speriamo in uno svecchiamento della classe docente, ma soprattutto a partire dal prossimo concorso, che ammetterà gli abilitati recenti, gli ultimi abilitati. Invece questo concorso è rivolto soltanto agli abilitati fino al 2008, perché devono aver frequentato la SIS o un percorso di laurea in scienze della formazione. Anche se su questo si preannuncia una valanga di ricorsi, lo sapete, sì. Lo so, ne abbiamo già contezza, ma sono già inclusi nei 321.000, perché noi non abbiamo posto blocchi a questo, proprio prevedendo che ci sarebbero stati tanti a far domanda pur senza avere l'abilitazione, pur senza rientrare nelle deroghe che sono previste nel bando. Quindi questi li accetterete? Sì, assolutamente, a prescindere dalle sospensive, li accetteremo in quanto sono già nei 321.000. Noi pensavamo invece di fare un accertamento sui requisiti soltanto dopo la prova preselettiva, prima della prova scritta. Adesso se riusciamo a fare la prova scritta dopo l'udienza di merito che si terrà, e che tutte le udienze preannunciate sono per il 21 febbraio al TAR sezione terza del Lazio, sì. Quindi avremo la dritta su come dobbiamo comportarci. Staremo dunque a vedere. L'ultima caratteristica di questi 321.000 candidati è che la metà delle domande arriva dal sud, ma qua c'è poco da dire, al sud c'è poco lavoro, si tentano tutte le strade, probabilmente non è che ci sia molto da commentare. Invece, prima di salutarla, volevo chiederle, siamo a posto sulle 24-18 ore? Sì, siamo a posto, ormai è definito, le ore degli insegnanti rimangono 18, i soldi sono stati, i risparmi sono stati fatti su altri cespiti, anche se io so benissimo che gli insegnanti già lavorano tanto più di 18 ore. Ecco, risparmi fatti su altre voci, ce n'è uno in particolare su cui vorrei una sua rassicurazione, 47,5 milioni dal fondo per il miglioramento dell'offerta formativa senza pregiudicare l'offerta, siamo sicuri che ci riusciamo, sì? Sì, ci riusciamo anche perché si tratta di un fondo che è di 1 miliardo 400 milioni. Quindi insomma è poca cosa quello che viene tirato via, sì. Quindi l'offerta formativa resta quella insomma. Sì. Va bene, la ringrazio moltissimo, ringraziamo Lucrezia Stellacci, capo dipartimento del MIUR, ci ha dato rassicurazioni, le 18 ore resteranno e insomma i risparmi che verranno risicati altrove non dovrebbero compromettere l'offerta formativa. E invece adesso cambiamo argomento perché parliamo di orientamento, un tema che ci sta molto a cuore, tempo infatti per i ragazzi delle medie di decidere cosa fare da grandi o perlomeno insomma cosa fare il prossimo anno alle superiori. Fra un po' infatti ci saranno le iscrizioni, allora vi anticipo già che il 14 dicembre dedicheremo una giornata a questo tema, una giornata che coinvolgerà al mattino Salvadanaio, poi la sera uno speciale dalle 21 alle 23 per darvi una mano a scegliere questa benedetta scuola superiore, consigli, idee, suggerimenti da parte di esperti, insegnanti e presidi. Ma è proprio dedicato proprio all'orientamento, anche l'ormai tradizionale appuntamento di Confindustria con Orienta Giovani, che si svolgerà invece venerdì a Firenze. Siamo arrivati alla 19ª edizione, il titolo di quest'anno è Giovani, Web e Lavoro. Ivan Lobello, vicepresidente per l'education di Confindustria. Uno dei temi rilevanti oggi è il tema dell'orientamento. Molto spesso famiglie e giovani sbagliano percorsi di studio e questo crea un elemento molto pericoloso nel nostro paese, cioè nel senso che abbiamo tantissimi giovani sovraqualificati, spesso anche laureati, che però non trovano posti di lavoro perché quei percorsi di studio in qualche modo oggi non consentono di trovare sul mercato un posto di lavoro. Quindi il tema dell'orientamento è un tema centrale che va messo, ripeto, al centro delle politiche del nostro paese, perché vede, oggi c'è un problema molto rilevante che ha bloccato il paese. Beh, innanzitutto dagli anni 70 in poi è stata svilita anche come ruolo sociale l'istruzione tecnica, che invece è stata fondamentale per la crescita del nostro paese e lo è per tanti grandi paesi europei, penso alla Germania dove è centrale nelle politiche industriali, nella capacità di supportare l'apparato manifatturiero tedesco. Le aziende faticano a trovare tecnici specializzati perché se ne formano pochi e perché bisogna mettere mano, diciamo così, a un potenziamento molto forte dell'istruzione tecnica. Il problema è anche, diciamo così, quello di un rapporto più stretto tra scuola e lavoro, rapporto più stretto che ovviamente passa sempre dalla qualità, dall'autonomia e dell'indipendenza della scuola, e però i ragazzi vanno a scuola perché poi per diventare cittadini sostanziali e non meramente formali devono trovare un posto di lavoro, quindi non ci può essere una separazione tra scuola e lavoro. I percorsi di alternanza tra scuola e lavoro sono elementi fondamentali della capacità competitiva di tantissimi paesi, non solo europei, ma anche di altre realtà più lontane. Nel nostro paese ancora permangono una serie di ostacoli alla formalizzazione di questo percorso scuola-lavoro che è centrale nella capacità competitiva del paese. Venerdì dunque Orienta Giovani a Firenze, per saperne di più potete andare sul nostro sito radio24.it oppure sulla pagina di Scuola in Controluce su Facebook. Vi ricordo che da qui al 14 dicembre, quando ci sarà il nostro speciale invece dedicato all'orientamento, ogni settimana dedicheremo spazio a questo argomento. Maria Piera Ceci vi saluta, domani Italia in Controluce.